As we arrive at iPhone's first birthday, today we're introducing the iPhone 3G. La star, come sempre, è Steve Jobs, maglia nera, tifo da stadio, stesso palco nel centro di San Francisco per annunciare l'arrivo del nuovo iPhone. E forse questa volta quasi tutte le indiscrezioni sono state centrate. A quasi un anno dall'esordio nel mercato della telefonia, il 29 giugno, la seconda generazione di iPhone corregge molti dei difetti della prima e lo porta al livello dei migliori smartphone del mondo. Ottimizzato il touchscreen, lo schermo a tocco che lo ha reso famoso ed è la grande innovazione dell'Apple, finalmente arriva la versione UMTS, più veloce per le connessioni ad internet. Il nuovo iPhone integra anche il GPS, ma c'è un'altra importante novità. The price is a maximum of $199. Il nuovo iPhone, che arriverà l'11 luglio in 22 paesi, Italia compresa, costerà nella versione base da 8 giga, annuncia Jobs, non più di $199, che al cambio attuale fa meno di €130. Un taglio di circa il 50% ai listini che segnala un cambio di strategia per arrivare all'obiettivo di 10 milioni di telefoni venduti nel 2008, un risultato che porterebbe l'azienda ad una quota di quasi l'1% nel complesso mercato della telefonia mobile, ma che significherebbe un raddoppio delle vendite rispetto allo scorso anno. Con la nuova versione, iPhone punta anche al mercato delle aziende e dell'email in mobilità, in diretta concorrenza con il BlackBerry. In Italia verrà venduto da TIM e Vodafone. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore.